svegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri Ponte, di Gabri Ponte. Sorgete